Rassegna Stampa Europa. Cari amici, cari ascoltatori, un saluto, un buongiorno e naturalmente un benvenuto a questo nostro consueto appuntamento del sabato con la Rassegna Stampa Europea. E allora, direi inevitabile partire questa settimana dal tema che sta tenendo banco nei rapporti appunto nell'Unione, tra gli Stati dell'Unione. Ve la cito con una notizia che arriva dalla televisione pubblica tedesca, ZDF, e recita così: la tensione tra Atene e Berlino non lascia per niente indifferenti i tedeschi. Secondo un sondaggio pubblicato proprio ieri dalla catena televisiva pubblica ZDF, il 52% dei tedeschi vogliono che la Grecia se ne vada dalla zona euro. Tutto questo corrisponde a una crescita di 11 punti percentuali su questo dato in pochissimi giorni, e di fatto racconta che i tedeschi considerano molto offensive le posizioni assunte dal governo greco nei loro confronti. Che cosa è successo? Piccolo promemoria. Il 10 marzo scorso, quindi all'inizio di questa settimana, Tsipras, il primo ministro greco, in Parlamento, parlando della crisi, ha detto: sarà il caso di farsi dare alcuni miliardi di euro dalla Germania per i danni provocati durante la Seconda Guerra Mondiale. Apriti cielo, i tedeschi non hanno per niente apprezzato. Naturalmente il dibattito si riguardava tutt'altre questioni, cioè il mancato pagamento dei debiti da parte della Grecia. Insomma, i tedeschi hanno la sensazione che la frittata sia stata letteralmente rigirata contro di loro. In tutto questo, e rimaniamo sempre in zona Grecia, lungo quest'asse Atene-Berlino, Le Monde, quindi ovviamente quotidiano francese, che esce nel tardo pomeriggio di ieri. Il titolo dell'articolo principale è: Grecia, nonostante tutto, una prima tranche di aiuti potrà essere decisa fin dalla prossima settimana. Insomma, cosa dice l'articolo scritto da Cécile Ducourtieu? Dice sostanzialmente: nonostante le pessime relazioni delle ultime ore, nonostante i battibecchi a distanza tra Atene e Berlino, la sensazione è che si arriverà fin dalla prossima settimana a varare quello che è poi l'attesa nuova tranche di aiuti attesa da parte della Grecia, ma diciamo anche per il benessere complessivo dell'Europa. Allora, la Ducourtieu scrive: l'incontro tra il primo ministro greco Alexis Tsipras, quello di ieri appunto, è stata l'occasione per il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker di dire che è necessario che la Grecia si impegni in maniera piena a lavorare con i rappresentanti dei paesi creditori. In particolare, viene ribadito e ricordato, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, il Meccanismo Europeo di Stabilità, insomma quella che una volta si chiamava Troica, ma che adesso, proprio per una sorta di psicologia interna all'Unione Europea, il termine è stato abolito. Allora si snocciola quelli che poi sono i rappresentanti, gli esponenti di quella che una volta era la Troica. Juncker dice: in sostanza, secondo Le Monde, piantiamola di bisticciare, invita i greci a lavorare sul serio sul progetto e auspica che già dalla prossima settimana ci sia poi un accordo sulla prossima tranche di aiuti. E adesso veniamo invece a un altro tema che è raccontato dal Sole 24 Ore, quindi gioco in casa. Il tema è interessante. Luca Veronese scrive un articolo sul nucleare e dice: l'Unione Europea blocca l'intesa tra Ungheria e Russia. Ve ne leggo un passaggio. L'Unione Europea ha bloccato l'accordo da 12 miliardi di euro firmato da Budapest e Mosca per l'allargamento e affidato ai russi. Allargamento dell'unico impianto nucleare ungherese a Paks. Lo riporta il Financial Times, citando fonti comunitarie, e lo confermano fonti vicine al governo ungherese. La decisione di Bruxelles, che aveva più volte criticato l'intesa, rappresenta una pesante sconfitta per il premier conservatore Viktor Orban, che, nonostante la guerra in Ucraina e le sanzioni UE contro la Russia, non ha esitato a manifestare l'amicizia politica per Vladimir Putin, accogliendo tra l'altro il presidente russo all'inizio, a metà anzi del mese scorso, a Budapest, in qualche modo provocando una reazione non tanto nascosta, a dire la verità, da parte delle istituzioni comunitarie. Ancora dal Sole 24 Ore, una notizia di cui abbiamo ampiamente dato riscontro nel corso di questa settimana. Il titolo è: Strasburgo chiede di riflettere sulle nozze gay. Il Parlamento europeo, riunito in seduta plenaria a Strasburgo, ha approvato, e l'ha fatto giovedì come ogni anno, la sua relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo, in cui tra l'altro si interessa alle discriminazioni contro l'omosessualità e alla situazione nei diversi stati membri per quanto riguarda il matrimonio gay. Al punto 162 della relazione si legge che l'Europarlamento prende atto della legalizzazione del matrimonio delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di paesi nel mondo, attualmente dice sono 17, e incoraggia le istituzioni e gli stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili. Tre brevi notizie in conclusione. Una riguarda gli irlandesi che vogliono riavere i polacchi, così almeno titola un settimanale di affari economici che si chiama Forsal. Il governo irlandese sta premendo per avere più polacchi al lavoro all'interno del paese, e scrive il settimanale polacco: dopo anni di discussione sulla presenza considerata a volte eccessiva dei lavoratori polacchi, ora il governo di Dublino ha cambiato idea. L'amministrazione irlandese ha infatti deciso che l'economia irlandese è abbastanza solida da richiamare molti di quei lavoratori, di quella manodopera specializzata polacca che negli ultimi anni in qualche modo sono stati poi invitati a lasciare il paese, a lasciare l'isola. Insomma, l'economia riparte almeno in Irlanda e l'emigrazione dall'Irlanda, secondo il quotidiano polacco, rischia di avere un grosso impatto di freno sulla ripresa economica. Pertanto questo titolo: l'Irlanda rivuole i polacchi, detto, come vi ho raccontato, da un settimanale polacco. Poi Guardian, dunque un quotidiano britannico, ha dato ampio spazio, anche con una sorta di affinità territoriale e culturale, al no definitivo dell'Islanda rispetto all'Unione Europea. Ora, che cosa è accaduto? In sostanza, dopo 6 anni di trattative, l'Islanda ha detto no grazie, non entriamo, non siamo più interessati a sostenere la nostra richiesta di ingresso nell'Unione Europea. In realtà non è una storia nuova, è un po' un tira e molla quello dell'Islanda rispetto all'Europa. 6 anni fa, al tempo della grande crisi, gli islandesi, quello che venne chiamato il melting down, cioè il crollo stesso, la sparizione delle principali banche dell'isola, dicevamo, l'Islanda, che aveva un governo laburista, chiese l'ingresso nell'Unione. Nel frattempo le cose sono cambiate, per fortuna per gli islandesi, la situazione si è calmata, è cambiato anche il governo alla guida del paese, ora sono i conservatori che guidano e comandano a Reykjavik e dunque hanno cambiato idea. Insomma, ancora una volta l'Islanda non entrerà dunque neanche questa volta nell'Unione Europea. Una battuta in conclusione arriva invece dalla Slovenia. Il Parlamento europeo riconosce l'aborto come un diritto fondamentale. Questa notizia, che fa parte sempre del pacchetto dei diritti civili, quindi della Carta dei diritti civili che viene votata ogni anno e di cui vi abbiamo parlato anche poco fa, ottiene invece un'ampia visibilità nella stampa slovena. RTV Slovenia racconta dunque che il Parlamento ha passato la risoluzione il 10 maggio che promuove l'accesso delle donne all'aborto come diritto fondamentale. Ecco, ricorda anche il quotidiano sloveno che sono ormai poche le zone dell'Unione Europea in cui questo diritto non è riconosciuto. Le città sono Irlanda, Polonia e Malta. Bene, con questa notizia che arriva dalla Slovenia direi è tutto. Da Gigi Donnelli un saluto, l'appuntamento con la rassegna stampa europea per sabato prossimo. A presto. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.